Van Loon. Dialogando di storia, qualcosa ne verrà fuori. Ciao a tutte e tutti da Frey, ben ritrovati e ben ritrovate con Balloon, la vostra mezz'ora di storia del sabato pomeriggio. Una mezz'ora di storia un po' particolare perché non solo parla di storia, di ricostruzione storica come quella che si fa in archivio, fatta da storiche e storici, ma che racconta la storia con tutti i linguaggi della cultura che abbiamo a disposizione. Vi abbiamo parlato molto spesso di libri, di letteratura che raccontano la storia, che hanno un'ambientazione storica. Vi abbiamo parlato quest'anno di un documentario che racconta la storia. Vi abbiamo parlato di fumetti e per la prima volta questa puntata abbiamo l'occasione di parlare anche di teatro. Il teatro è un genere con cui dovremmo dedicarci un po' più spesso perché molto, molto parla di storia, come possiamo vedere. L'occasione ci arriva da uno spettacolo, o meglio una riduzione di uno spettacolo che verrà messa in scena oggi pomeriggio alle ore 17 presso le scuderie di Piazza Verdi, e questo spettacolo è Pugni Chiusi, uno spettacolo teatrale di Maurizio Boschini con Jacopo Trebbi e con la regia di Gianni Marras. Uno spettacolo del 2018 che sta girando parecchio, che è dedicata a una storia molto particolare come quelle che ci incuriosiscono di solito. La storia è quella di Peter Norman, un protagonista, malgrado lui diciamo, un protagonista anche malgrado noi. Peter Norman è l'atleta bianco che si trova in una famosa fotografia. È la fotografia delle Olimpiadi di Città del Messico. Tommy Smith e John Carlos alzano al cielo il pugno guantato di nero contro il razzismo mentre suona l'inno americano. Peter Norman è l'atleta australiano che è arrivato al secondo posto. Una storia che malgrado si rimetta a una delle foto più famose della storia contemporanea, purtroppo è stata dimenticata e Peter Norman è caduto un po' nell'oblio. In questa puntata cercheremo di raccontare e di ricostruire la sua storia, parlando naturalmente dello spettacolo. Avremo con noi fra poco al telefono Maurizio Boschini, l'autore di questo spettacolo Pugni Chiusi, che è dedicato alla sua vita, ma anche per cercare di ricostruire la storia di questo personaggio, Peter Norman. E lo faremo con uno storico dello sport, Nicola Sbetti, che è la persona che fa al caso nostro, perché nel 2012 ha pubblicato un bellissimo libro che si intitola Giochi di potere, Olimpiadi e politica da Atene a Londra 1896-2012, e quest'anno ha scritto un altro libro insieme a Riccardo Brizzi, Storia della Coppa del Mondo di Calcio 1930-2018. Approfitto, i riferimenti per questi libri, come per gli altri che citeremo nell'arco della puntata, li troverete lunedì sul nostro sito internet www.radiovalluncondueo.info. Ora ci andiamo un po' in musica e poi iniziamo la nostra puntata chiacchierando con Nicola Sbetti. Sarà che le parole da un po' di tempo non fanno rumore, però non saprei dire se esista qualche cosa di migliore che starvi a sentire e riprovare l'odore d'acqua dolce che attraversa l'inferriata. È un brivido che viene e si allontana ogni volta che il mio nome frana dalla gradinata. E mi ritorna in mente una metà di marzo di 20 anni fa. Stesso lato dello stesso prato, identica la maglia, uguale la città. I piedi che parlavano di sé, le scarpe nuove, un mare di domani da contare. Le spalle che imparavano a vestirsi con il 9 e una valigia fatta per tornare. E voi non gli credete se dicono che non so più giocare. Venissero a vedere cosa faccio quando dormo e quanto riesco a segnare e cosa sento cantare. Quando i blu saranno in cielo voglio essere con loro, che sono pronto tutto per l'amore tuo. Io voglio essere con loro quando i blu saranno in cielo. Quando il blu saranno in cielo. e forse sono nato il giorno di Sant'Aria di rigore. Mia madre andava a destra, mio padre il vuoto sotto la traversa, e non credo a niente di migliore che stare in questo scampolo di prato, che sono ancora e sono stato la pratica dell'espressione attaccante nato. E sogno un altro sgarbo alla sponda bella di Milano, un volo tutto campo e un salto quasi in braccio all'uragano che sta per franare e che continua a cantare. Quando i blu saranno in cielo voglio essere con loro, che sono pronto tutto per l'amore tuo. Io voglio essere con loro quando i blu saranno in cielo, quando i blu saranno in cielo. Bene, dopo il primo stacco musicale entriamo nel racconto di Peter Norman e lo facciamo cercando di ricostruirne un po' la storia e diamo il benvenuto quindi a Nicola Sbetti, storico dello sport, che ci racconta di questo personaggio. Chi è stato Peter Norman e in che maniera si è trovato coinvolto in questo momento fondamentale della storia del Novecento? Allora, Peter Norman è stato innanzitutto il più forte velocista della storia in Australia. Un giovane australiano che ha ottenuto dei tempi e dei risultati che mai nessun altro, parliamo ovviamente del settore maschile, ha ottenuto. Però appunto la sua fama è dettata dal fatto che è salito in quello che è senza dubbio il podio più famoso della storia dei giochi olimpici, ovvero il podio dei 200 metri di Città del Messico 1968, in cui due afroamericani, Tommy Smith e John Carlos, innalzarono i pugni chiusi durante l'esecuzione dell'inno per protestare contro il mancato rispetto dei diritti civili negli Stati Uniti, e quindi portando una battaglia politica molto ampia che era stata portata avanti non solo da questi due campioni ma appunto da tutto un movimento che si chiamava Olympic Project for Human Rights, promosso da un sociologo che si chiama Harry Edwards e tutta una serie di atleti afroamericani. Appunto, Norman si trovò in questo podio e volle condividere quella che è stata appunto senz'altro la protesta più famosa della storia delle Olimpiadi. In che maniera questo gesto ha influito poi sulla sua vita? Perché Peter Norman da quella fotografia poi scompare dai riflettori della storia, diciamo. Sì, senz'altro. Allora, Norman per supportare appunto la protesta decise di indossare la spilletta dell'Olympic Project for Human Rights, quindi una protesta di supporto che non voleva invadere appunto quella che era comunque una protesta sentita principalmente appunto dagli atleti afroamericani, ma volle dare il suo sostegno e lo volle dare con una totale naturalezza del rispetto anche a quello che era il suo background. E però appunto fare un gesto politico in quell'occasione, nel contesto olimpico, era considerato inaccettabile per i vertici sportivi del tempo, per i vertici sportivi internazionali, ma anche per quelli nazionali. Ora, la colpa che i vertici sportivi australiani, che non dimentichiamo, Australia era un paese estremamente razzista in quegli anni, che aveva la white policy, quindi gli immigrati che arrivavano in Australia potevano essere esclusivamente bianchi in quel momento storico, ecco, e i dirigenti australiani di fatto lo esclusero, non lo esclusero in maniera violenta e immediata come avvenne per Smith e Carlos negli Stati Uniti, ma fu un'emarginazione più sottile, più lenta, e anche se Norman aveva, diciamo, tutte aveva la possibilità di, 4 anni dopo di partecipare alle Olimpiadi per i tempi che fece, ed era ancora il miglior sprinter in circolazione nel suo paese, non andò alle Olimpiadi, appunto fu lentamente emarginato. E come è cambiata la sua vita dopo questa esclusione dal mondo dello sport, da questa lenta esclusione dal mondo dello sport? Adesso non vorrei fare una sorta di spoiler dello spettacolo teatrale, perché nello spettacolo l'emarginazione e graduale di Norman dalla vita australiana, dalla vita sportiva australiana, emerge molto bene, anzi proprio lo spettacolo fa emergere proprio in maniera soggettiva Norman che parla, ed è molto bello secondo me. Però ecco, l'aspetto interessante è che in Australia che è una nazione sportiva, che ha una grande cultura sportiva, dove la storia dello sport, c'è una grande attenzione alla storia dello sport, ecco, la figura di Norman era stata volutamente dimenticata, era sceso un oblio, e a recuperarla sono state invece, è stata la Federazione Americana di Atletica, non a caso in quel momento, gestita, diretta da un afroamericano, che in occasione delle Olimpiadi di Sydney 2000, quando nessuno aveva pensato di invitare Norman, fu proprio la Federazione Atletica Americana a volerlo celebrare e a dargli appunto la dignità che meritava, e al fatto proprio appunto che in maniera molto semplice, in maniera molto naturale, Norman avesse voluto dare il supporto appunto a quella protesta, una protesta che negli anni 2000 era ormai celebrata come un grande momento, una vittoria per il movimento afroamericano, ma che invece nel 68 era stata ampiamente criminalizzata negli Stati Uniti. Quindi gli Stati Uniti in questo senso appunto hanno recuperato molto prima, anche se appunto forse la sorte di Smith e Carlos fu più dura nell'immediato di quella di Norman, ma poi l'oblio nei confronti di Norman è stato senz'altro più lungo. Bene, adesso arriviamo, dopo aver ricostruito la storia di Peter Norman con Nicola Sbetti, a quello che è lo spettacolo, il protagonista di questa giornata, lo spettacolo teatrale Pugni Chiusi. Ora vi manderemo un piccolo estratto del trailer per anticiparvi qualcosa, un trailer che è disponibile su internet e che però ci piace perché ci dà l'occasione per raccontare questo personaggio, che poi ci racconterà meglio Maurizio Boschini, l'autore dello spettacolo teatrale che avremo fra poco ai nostri microfoni. Che cos'è importante, quando guardi la tua vita dal garage dell'anima? Norma! Non devi mai incrociare lo sguardo quando corri una gara sui 200, sui 100 metri, capito? Non devi mai defocalizzarti, devi sempre rimanere concentrato su quello che è e deve rimanere il tuo obiettivo! Era il 1968. Si veniva dalla primavera di Praga, dalla guerra civile in Cina, dalla rivolta degli studenti al maggio francese. In quel momento sentivo che la storia entrava a far parte della mia vita e che io con una grande impresa avrei potuto cambiare la storia sportiva del mio paese, sì. Questi erano i miei obiettivi, i miei sogni, le mie speranze. Secondo! Sì! Peter Norman, australiano, medaglia d'argento alle Olimpiadi! Noi non uscimmo mai da quel tunnel degli spogliatoi, perché immediatamente dopo ognuno entrò nel tunnel della sua vita. Sì. gira sto letto che raddoppiasse ce sto da me. M'era sembrato come un bel sogno fatto da solo e fatto a metà. Come una giostra gira sto letto che raddoppiasse ce sto da me. M'era sembrato come un bel sogno fatto da solo e fatto a metà. Buongiorno Maurizio e benvenuto su Vallun. Allora, poco fa Nicola Sbetti ci ha raccontato la storia di Peter Norman, mentre ora vorremmo chiedere a te di presentarci direttamente lo spettacolo che verrà rappresentato questo pomeriggio alle Scuderie di Piazza Verdi. Come è nato Pugni Chiusi e in che maniera avete scelto di raccontare la vita di Peter Norman? Beh, intanto buongiorno a tutti. La vita di Peter Norman ci è venuta dal web direttamente, perché era una storia poco nota che però alcuni siti avevano rilanciato. L'abbiamo intercettata il regista Gianni Maras ed io nell'estate del 2017 e ci è venuta l'idea di fare una drammaturgia e quindi scrivere quello che poi ho messo come in atto come un monologo. E questo è stato in un primo tempo riferito sia alla vita di Peter Norman ma anche un po' a una celebrazione del 68, come abbiamo voluto fare dal 16 ottobre in poi con una serie di rappresentazioni di questo spettacolo. Però in realtà, come forse magari abbiamo modo di dire anche in seguito, è diventato anche non soltanto uno spettacolo sulla vita di questo atleta australiano che arrivò secondo alle Olimpiadi di Città del Messico nei 200 metri tra appunto Smith e Carlos, gli americani che fecero il gesto del Black Power Salute col pugno chiuso, ma questo spettacolo, dicevo, è diventato anche un qualcosa di più attuale. Perché alla fine di che cosa parla? Parla di quello che un bianco come Peter Norman ha pagato nel resto della sua vita per aver solidarizzato con due uomini di colore. Ecco, guarda, io partirei proprio da questo aspetto della solitudine. Premetto, io ho visto per il momento soltanto il trailer che è disponibile su internet e quindi che è quello che vi abbiamo mandato poco fa. Vorrei dalla solitudine, però mi sembra un elemento molto forte in questo spettacolo. Innanzitutto è un monologo che vede in scena solo Jacopo Trebbi e con una scenografia anche abbastanza semplice, anche abbastanza minimale. Cioè, qual è la scelta che avete fatto di raccontare questo personaggio? Cioè, quale strada avete preso per raccontare la sua vita? Abbiamo preso la strada che pagato appunto, con cui ha pagato Peter Norman la sua scelta, che è stata purtroppo quella dell'oblio. L'oblio vuol dire dimenticanza, vuol dire essere emarginato, non tanto come furono emarginati i due atleti di colore, perché furono trattati male dalla loro federazione, furono ridotti a fare soltanto lavori umili. Peter Norman fu invece pian piano escluso dalla sua nazionale, escluso da quello che era il suo mondo, che era il mondo dell'atletica, e dimenticato. Quindi rendere una situazione minimale, come giustamente hai detto, di un garage dove un uomo nella prima parte è come Peter Norman, è più in preda ai ricordi che non in una situazione di positività, è quello che, come giustamente hai compreso, il taglio che abbiamo voluto dare, rappresentare un oblio che però diventa anche un riscatto. Bene, e naturalmente il nostro è un programma di storia, quindi ci interessano le maniere con cui la storia viene raccontata. Come dicevo in introduzione, questa è una bella occasione perché è la prima volta in cui parliamo di teatro, quindi Maurizio ci stiamo un po' mettendo alla prova con te. Per costruire soprattutto la parte testuale, mi chiedo, cioè, su quali materiali avete lavorato, di cosa vi siete serviti per cercare di raccontare per l'appunto Peter Norman? Ma guarda, quella è stata la parte più impegnativa ma anche più divertente, perché se tu ami fare questo lavoro, ami il teatro, ami scrivere come nel mio caso, diciamo che non è stato certamente una cosa pesante ma un approfondimento, perché dalle notizie più banali, da quelle che si possono trovare digitando Peter Norman su Google, dopo è partita una serie di approfondimenti che sono serviti anche per lo spettacolo, per da un lato centrare sempre meglio il personaggio, dall'altro comunque rimanere fedeli a quelle che è stata un po' la storia vera di questo personaggio, perché quello che poi è importante anche di questo spettacolo è che si narra una storia vera in molti dettagli e anche con precisione di particolari. Se ti posso fare un esempio, perché mi chiedevi insomma di questi approfondimenti, un tema che nello spettacolo in parte viene fuori e in parte ulteriormente abbiamo approfondito è come hanno fatto a escludere Peter Norman gradualmente dalle scene dell'atletica. È stato per certi aspetti abbastanza semplice, perché non l'hanno fatto partecipare come era nei suoi diritti anche sportivi, perché era stato medaglia d'argento alle Olimpiadi del 68, non l'hanno fatto partecipare alle Olimpiadi del 72. Però la dinamica è stata piuttosto controversa, cioè Peter Norman aveva fatto i tempi per 13 volte per partecipare a quelle Olimpiadi, però ai trial, cioè alle gare ufficiali per la missione Olimpiadi, lui non fece il tempo giusto. Peccato che nessun altro atleta australiano velocista di atletica avesse fatto il tempo, e comunque la federazione per punizione non ha mandato nessuno, quindi né Peter Norman né nessun altro, quindi questo era chiaramente il gesto punitivo. Però ecco, tutto l'approfondimento è nato un po' da questa ricerca che non trovi ovviamente alla prima giro di Google, ma che devi trovare su libri, letteratura, articoli in inglese, articoli anche della federazione australiana, quindi tutta una serie di ricerche che chiaramente poi alla fine devi condensare in un testo che è importante sia aderente al punto di vista storico, ma che deve anche avere una sua drammaturgia e anche qualche libertà. Grazie ancora a Maurizio Boschini per essere stato con noi, per essere stato con Vallun e per averci raccontato Pugni Chiusi, lo spettacolo teatrale dedicato a Peter Norman, la cui riduzione andrà in scena oggi pomeriggio alle ore 17 presso le scuderie di Piazza Verdi. Quindi è una bella occasione per vedere un estratto di questo spettacolo teatrale. Allora, quindi ricordiamo il libro di Nicola Sbetti per approfondire la biografia di Peter Norman, che è Giochi di potere, Olimpiade e politica da Atene a Londra. Poi dopo vi suggeriamo un altro paio di libri che approfondiscono l'argomento. Perché mi hanno iniziato a uscire parecchie cose su di lui, perché è una storia interessante, è una storia tragica, ma vale la pena raccontarla. Partiamo dal libro di Carlo Santi, edito da Infinito Edizioni, 68, L'anno del non ritorno. Poi abbiamo un libro, che è un libro, se non sbaglio, anche un libro per ragazzi, è un libro di Riccardo Gazzaniga, Abbiamo toccato le stelle, storie di campioni che hanno cambiato il mondo. Trovate un bell'articolo, l'uomo bianco in quella foto, sul blog di Riccardo Gazzaniga. Comunque, come dicevo, tutti i riferimenti sono disponibili sul nostro sito, da www.radiovallun.info da lunedì. E in più c'è un documentario, Il Saluto, che è stato realizzato dal nipote dell'atleta australiano, Matt Norman. Bene. Per oggi è tutto, appuntamento quindi fra qualche ora alle ore 17 alle scuderie di Piazza Verdi per vedere Pugni Chiusi. Noi ci aggiorniamo nell'arco della settimana prossima. Per oggi è tutto, buon proseguimento di giornata da Frey. Ciao! Magari accade che a forza di cambiare si cambia, magari una ragione prima non c'era, ce ne sono mille ora in una volta. Certi silenzi sembrano in coro, sarà che in ognuno si agita, serbata e nascosta come un tesoro, la stessa preziosa domanda. Perché sgobbare in una fabbrica? Perché sporcarsi di fuliggine? Se poi la sera soli con noi qualcosa trema e non si ferma mai. Che cosa c'è che dentro si muove? C'è che ognuno a suo modo lo sa, che il tempo è quasi scaduto, e allora faccia una scelta e il tempo la giudicherà. Perché quasi una vita si resta senza muovere un passo, poi si cambia di schianto e si comincia a correre, si scopre cosa si è. allora come dice il vento sarà qualcosa che ti passa addosso e lascia solo un senso, una verità, il modo per non scivolare via nella corrente delle cose, traccia una rotta, traccia una rotta, traccia una rotta. Fermi e rigioni distanti quanto i nostri ricordi da piccoli, oltre dove azzurrano i monti, dietro la nebbia degli anni. Già c'è un sogno disperato, lui può dirti